manyo kai di bagai dala. Mwendu mangai di malelive. Ki manyo kai di bagai dala. Mwendu mangai di malelive. Ki manyo kai di bagai dala. Mweke di malelive. Ki manyo kai di bagai dala. Mweke di poso modu. Ki manyo kai di bagai dala. Dede u malelive. Ki manyo kai di bagai dala. Mwendu mangai di malelive. Passa.